ancora sulle note dei Senza Sicura, che come di consueto vanno a fungere da sigla di Maldestra, iniziamo la puntata odierna ed iniziamo subito con una novità, poiché iniziamo con un collegamento che speriamo diventi quanto più regolare. Dovremmo avere infatti al telefono già da ora Matteo Zola di East Journal. Verifichiamo intanto se effettivamente ci senti. Buongiorno a tutti, sì, vi sento benissimo. Buongiorno a te. Allora, come accennavamo, quella che andiamo ad iniziare adesso, speriamo che sia una collaborazione quanto più possibile regolare e fruttuosa, andiamo magari a raccontare un po' come ci è venuta anche in mente questo tipo di collaborazione, visto che lo farei partendo da quello che è il sito East Journal, il cui indirizzo è eastjournal.wordpress.com, che per chi non lo sapesse è di fatto uno dei siti più completi ed aggiornati per quanto riguarda il panorama politico e sociale dei vari paesi dell'Europa dell'Est, e in qualche modo anche particolarmente vicino alle tematiche di questa trasmissione, poiché comprende anche una sezione specifica sull'estrema destra. Noi appunto di questo con te andremo a parlare. Se tu vuoi intanto raccontarci un po' come è iniziato anche, cioè, la storia di questo sito, che tipo di progetto è? Ma il sito è stato aperto a marzo, nasce da una collaborazione, di quelle collaborazioni che soltanto la rete può consentire, quindi giovani studenti o giovani giornalisti che hanno passione e competenze su questi temi e che hanno deciso di dare il loro tempo gratuitamente, perché nessuno di noi percepisce un soldo per questa attività, appunto occupandosi di queste tematiche che riguardano l'Europa orientale. Proprio perché noi consideriamo l'Europa orientale un tassello fondamentale per il processo di integrazione europea. Guarda, scusami, che ci stiamo facendo i complimenti col mio socio rispetto a qualche domanda da farti. Notiamo che tra nelle categorie del sito, che tra l'altro magari ricordiamole, estjournal.wordpress.com, le categorie, oltre a quelle, diciamo, agli editoriali più o meno generici sulla storia, la cultura e l'economia dei paesi dell'est europeo, sono alcune aree tematiche particolarmente specifiche. In particolare, appunto per quello avevamo iniziato questa collaborazione, ce n'è uno relativo all'estrema destra, uno si chiama Gazpromenade, che ora lo apro, ma immagino riguardi le politiche energetiche e diciamo la geopolitica energetica, diciamo tassello fondamentale dell'Europa orientale, mafia e altre tematiche, già non tantissime, quindi evidentemente c'è forse una centralità data appunto a alcune questioni che riguardano in maniera complessiva tutto il panorama orientale dell'Europa. Certamente, e il tema dell'estrema destra è uno di quelli fondamentali, perché ahimè anche in quella occidentale, ma soprattutto in quella orientale, vediamo un rimontare anche violento di movimenti di destra estrema, che poi si compongono e si declinano in modi differenti, non soltanto con il comune, passatemi il termine, neonazismo a cui siamo abituati in Europa occidentale, ma a peculiarità proprie. Uno di questi è lo Jobbik ungherese, insomma, il più noto in Occidente, perché se ne è parlato in occasione delle ultime elezioni del 2010. Esatto, allora io proprio da qua ti chiederei di partire, direi di iniziare appunto questo nostro viaggio nell'estrema destra dell'Europa orientale, allora proprio dall'Ungheria, quindi ti lascerei anche appunto la parola per raccontarci quello che è, poi magari ti facciamo anche qualche domanda. Senz'altro, nulla, lo Jobbik è diventato noto alle cronache italiane, non solo, proprio in occasione delle elezioni del 2010, è stato descritto giustamente come un movimento, poi divenuto partito, di destra estrema, con ispirazioni, questo sì, vicine al nazismo del secondo conflitto mondiale, e un partito che è riuscito ad affermarsi con quasi il 17% dei consensi alle ultime elezioni politiche, che è un bottino piuttosto lauto di voti. Bisogna chiedersi come è stato possibile, e bisognerebbe fare un passo indietro. Il passo indietro va fatto dal momento in cui in Ungheria, con la caduta del comunismo, non c'è una rottura. Il partito socialista che governò per 50 anni l'Ungheria si è in qualche modo riciclato e ha governato il paese fino praticamente al 2010, proprio fino a queste ultime elezioni. Nel 2006 ci fu una fortissima contestazione e il governo comunque non si dimise, addirittura i manifestanti rubarono un carro armato utilizzato come monumento e non si sa come riuscirono addirittura a metterlo in moto e si lanciarono contro il Parlamento con questo carro armato. Le manifestazioni avvenirono anche in concomitanza con l'anniversario dell'insurrezione di Budapest del 1956. Quindi c'era un profondo malcontento della popolazione. Certe retoriche populiste legate alla discriminazione contro i Rom e legate al nazionalismo hanno consentito a Jobbik, e non solo, di crescere come partito politico. Dico Jobbik che non solo, perché l'altro partito, quello che poi ha vinto, si chiama Fidesz, è un partito descritto come di destra moderata, e in un certo senso lo è, ma non disdegna accenti populistici. E questo occorre dirlo: se Fidesz non avesse raggiunto il 52% dei consensi, quindi la maggioranza, avrebbe senz'altro fatto l'alleanza di governo con Jobbik, e quindi avremmo avuto un partito di estrema destra come Jobbik al governo, cosa che non è avvenuta, ma ciò comunque non gli ha impedito di entrare in Parlamento. Il giorno dell'ingresso in Parlamento il leader di Jobbik, tale Gabor Vona, ha deciso di fare la sua entrata con la camicia bruna di quella che viene chiamata la Magyar Garda, la guardia ungherese, che è una accozzaglia di invasati che si vestono con divise che ricordano quelle del Terzo Reich e che si propongono come ente di polizia, di parapolizia o paramilitare. Questi erano stati comunque condannati già in precedenza come movimento, ma la legittimazione politica ovviamente gli ha consentito di tornare liberamente sulla scena. E appunto lo Jobbik nasce come movimento studentesco che unisce cattolici e protestanti e progressivamente appunto si orienta verso i temi del nazionalismo, temi che sono particolarmente forti in tutta l'Europa orientale e che particolarmente in Ungheria colpiscono anche un elettorato moderato, al punto che c'è forse in Italia è poco nota, c'è una forte frizione tra Ungheria e Slovacchia, perché in Slovacchia esiste una minoranza ungherese molto corposa, quasi il 10% della popolazione slovacca. Ora, cosa fa Jobbik? Jobbik agita l'irredentismo in nome di un pan magiarismo che ricalca l'antico impero ungherese, ricorderete, no, l'impero bicipite con l'Austria e l'Ungheria. Territori che furono tolti al Regno d'Ungheria alla fine della Prima Guerra Mondiale, da lì nacquero altri paesi tra cui la Slovacchia. Logicamente persistono minoranze ungheresi nei paesi che furono parte dell'impero, quindi la Romania e la Slovacchia. Sì. Questo governo di destra, in particolare Jobbik, ma non solo, fomentano il nazionalismo e l'irredentismo, e quindi fomentando anche forti frizioni con i paesi vicini, e tutto ciò è due volte più folle se stiamo a pensare che tutti questi paesi appartengono all'Unione Europea, quindi aderiscono a un processo che li porta progressivamente a perdere sovranità. Quindi c'è insieme al percorso di integrazione, quindi di perdita di sovranità, un ritorno fortissimo del nazionalismo in Ungheria e non solo, ecco. Senti, tra l'altro in realtà hai anticipato alcuni dei temi che avevamo un po' preparato come domande da farti, però uno, diciamo, penso sia il caso di approfondirlo, questo in particolare dell'integrazione europea, dato che ora, al di là delle specificità dei gruppi nazionalisti, populisti e neonazisti europei, ci sono alcuni caratteri che vanno anche, penso, a incrociare poi le questioni più strettamente, più vicine anche a noi. Quella, per esempio, delle politiche di integrazione e delle dei costi sociali che ha l'integrazione europea e che ha i costi sociali che ha in generale l'integrazione in un sistema economico ampio che riduce la sovranità dei paesi che coinvolge. L'Ungheria è una locomotiva per l'est europeo, è uno dei primi paesi a essere entrato all'interno dell'Unione Europea, è in qualche maniera anche atipico in questo, si apre una tradizione proprio, è forse il più occidentale in senso anche culturale, al di là dei trascorsi diciamo sovietici più forzati probabilmente che altro, no? Quindi volevo chiedere appunto rispetto a questo quali sono le tematiche che Jobbik o in generale comunque la destra ungherese agita rispetto proprio, quali sono anche dei nodi critici che si possono riscontrare nel panorama socio-economico ungherese che permettono in qualche maniera a queste formazioni poi di avere questa base così ampia di consenso. Sì, sì, ma sull'Ungheria come locomotiva sono un po' scettico vista la crisi profondissima che la recente crisi greca, ecco, ha portato un po' ovunque e in Ungheria soprattutto c'è stata una svalutazione del fiorino poiché ancora non ha l'euro l'Ungheria, che ha messo l'economia in ginocchio, ma un'economia comunque sempre abbastanza fragile che si poggia principalmente sull'agricoltura. Perché lo dico? Perché, rispondendo alla tua domanda, proprio la parte di popolazione più rurale, quindi quella tradizionalmente meno incline al rinnovamento, è quella più facilmente vittima delle retoriche di Jobbik, che sono retoriche di tipo razzistico, quindi riferendosi specificamente contro i Rom prima di tutto, poi gli slovacchi soltanto in certe zone del paese, ma anzitutto i Rom, l'antieuropeismo utilizzato in chiave nazionalistica, cioè il discorso di Jobbik è non abbiamo bisogno dell'Unione Europea perché noi dobbiamo rifondare la grande Ungheria. Insieme ai Rom, oltretutto, c'è anche la questione degli ebrei. Paradossalmente nella società ungherese, come in molte società dell'Europa orientale, funziona ancora la retorica antisemita, una retorica che ha portato la candidata la candidata di Jobbik per Strasburgo nelle elezioni europee del 2009, tale Cristina Morvai, l'ha portata a fare dichiarazioni abbastanza forti, diciamo così, dove definisce, io cito testualmente, definisce l'ebreo come un caso psichiatrico, un mostro, e riferendosi a certe critiche che le sono state rivolte dalla comunità ebraica e non solo, dice che gli ebrei dovrebbero occuparsi d'altro ed emettere le loro flatulenze, lo dico testualmente, questo ha detto, altrove che non in Ungheria. Quindi sono temi anche trattati con un livello di becerume, passatemi il termine, piuttosto spicciolo, e che funzionano perché agiscono appunto su questa popolazione rurale impoverita, spaventata soprattutto dalla crisi economica, ma anche da una situazione economica precedente che non era molto florida, ecco. Senti, a me l'unica altra domanda poi che mi viene un po' in mente è relativamente a quanto avevamo anche letto nei giorni appunto in cui Jobbik era assurdo alle cronache appunto per il risultato elettorale, in cui veniva descritto un po' gli primi passi di Jobbik, venivano descritti in qualche modo come sostenuti dal centrodestra ungherese, almeno in un primo momento, e poi invece Jobbik si era in qualche modo affrancato da questa cosa, aveva cominciato a camminare sulle sue gambe fino poi appunto ad arrivare in Parlamento e però, come dici te, non entrare nel governo. Io quello che ti volevo chiedere è intanto se ti risulta come funziona questo rapporto tra la destra più istituzionale e invece il partito di Jobbik, e poi a questo punto quali sono adesso i rapporti, se è vero che non sono al governo ma c'è in qualche modo opposizione, cioè come funziona appunto questo rapporto? Ma è un rapporto diciamo costruttivo nei loro interessi, poiché Fidesz, che appunto ha anche un aspetto di destra moderata ed europea, non perde gli accenti populistici con cui è cresciuta e che le sono serviti per fare presa sulla popolazione stanca dei governi socialisti. E, comunque Fidesz non delegittima mai pubblicamente e politicamente, non delegittima mai l'operato di Jobbik, al punto che questi sono rumors, perché poi non si possono affermare in quanto non è avvenuto, ma al punto che erano disposti a fare il governo con Jobbik pur di andare al governo. Quindi una destra sì, moderata, ma che non ha nessun problema a mettersi con chi moderato non è per ottenere il potere politico. E persino le volontà irredentistiche di Jobbik sono stimolate, sono accettate, considerate che a maggio dello scorso anno il Parlamento ungherese approvò un documento nel quale si definiva il Trattato del Trianon, cioè l'atto con cui veniva smembrato il Regno d'Ungheria, definiva quell'atto una tragedia per tutti gli ungheresi, segno evidente di come il nazionalismo e il revisionismo storico non siano aliene anche alla destra cosiddetta moderata, che, ripeto, è una destra di stampo prettamente populistico, ecco. Non è una destra alla CDU tedesca, insomma, è una destra di slogan e molto poco di contenuti. Va bene, noi ti ringraziamo. Io non so se tu hai qualcos'altro da aggiungere, sei stato comunque anche molto esaustivo appunto in questa panoramica ungherese. Non so se hai qualcos'altro da aggiungere o se ci risentiamo anche la settimana prossima per continuare questo viaggio nell'estrema destra dell'Europa orientale. Io vi ringrazio, sono ben felice di risentirci la prossima settimana, tratteremo un altro paese, vedremo poi quale, e l'unica cosa che posso aggiungere è soltanto una nota. Noi giustamente ci concentriamo su questi temi, troppo spesso si parla, lo dico come atto d'amore, troppo spesso si parla dell'Europa orientale soltanto per i temi negativi, che certamente ci sono, ma che non connotano quel mondo in maniera esclusiva. L'opinione pubblica occidentale si occupa dell'est soltanto quando c'è da parlarne male. Sì, sì, chiaro. Poi ovviamente poi questa trasmissione c'è anche appunto questa tematica, però siamo anche assolutamente d'accordo con te, insomma. Comunque, per appunto anche tutto il resto, rimandiamo ancora una volta al sito estjournal.wordpress.com e a questo punto ringraziamo Matteo Zola e ti diamo appuntamento alla settimana prossima. Grazie a voi. Grazie, ciao. Time not long ago, when people were still living in the northern zone, they could still breathe and everybody wasn't dead. Somebody recorded a song. This is what it said. E rimanendo in Europa orientale, riprendiamo la nostra consueta finestra sulla Russia, quest'oggi in maniera estremamente telegrafica. Riportiamo da Peace Reporter la notizia delle due aggressioni ai danni di due giornalisti nel giro di due giorni. Un altro giornalista russo è stato vittima di un'aggressione da parte di ignoti. Si tratta di Anatoly Adamchuk, redattore del settimanale Zhukovskie Vesti. Si era occupato ultimamente dell'arresto di alcuni studenti che protestavano contro l'abbattimento della foresta di Khimki per la costruzione dell'autostrada, tema che, se ricorderete, abbiamo seguito anche dalla viva voce degli attivisti russi, di cui ritrovate ovviamente corrispondenza sul nostro blog. L'attacco è il secondo contro giornalisti nell'arco di pochi giorni. È di sabato l'aggressione a Oleg Kashin, questa ben più riportata dai quotidiani, di cui è uscito anche il video su Repubblica.it, redattore di un quotidiano economico, il Kommersant. Un video infatti documenta l'accaduto. Il video mostra due uomini attaccare il giornalista da dietro, colpirlo sulla nuca e continuare a colpirlo quando l'uomo è già a terra. Anche Cashin si era occupato della foresta a rischio. Si è ritrovato con mandibola e stinchi rotti, oltre a ferite alle dita e al cranio. Al momento il governo ha sospeso il progetto dell'autostrada. Le autorità regionali hanno negato ogni coinvolgimento. Intanto il governo ha ordinato un'indagine considerata un attentato omicidio. 40 giornalisti russi hanno redatto una lettera per protestare contro i continui attacchi a libertà di stampa e alla vita dei giornalisti. Il diritto dei reporter di compiere il loro dovere in una maniera normale e non preoccupati delle loro vite, questo è il diritto della società di parlare e di essere udita. Recita il testo della lettera. Ovviamente non facciamo altro che contestualizzare questo invito al mondo russo e rimandiamo ovviamente a himkibattle.org per gli aggiornamenti sulla questione delle lotte ambientali per la difesa della foresta di Khimki. Before we all go down, the revolution is a moment away. The tensions in the air that is coming our way, but powerful forces do their best to counteract so they'll suit the west. Temperatures rise, the name of turning back. At this point, where the world is at, heading for a crossroad. Which way to go? Heaven or hell? Only you can say you know by what you wrote. Je deviens celle avec qui ils passent le plus de temps. Et ils sont fiers d'être de mes enfants. Ils portent mes couleurs dorénavant. Ils doivent prouver qu'ils sont dignes de mon rang. Me prouver à moi en prouvant à leurs frères qu'ils en ont dans le froc en provoquant l'enfer. Qu'ils puissent étoffer leur palmarès pour alimenter le pacte jusqu'à ce qu'ils se perdent dans leur prouesse. Je leur ai inculqué qu'il y a ni bien ni mal. Juste des faibles et des forts à l'instinct animal. Parce que dans mes artères coule la jungle. C'est chacun pour toi et tout sur celui qui va gêner. Qui l'a vu? La mère des enfants perdus qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la ruse, celle qui t'enseigne la ruse. Viens te perdre dans mon chahut. Je suis la ruse, la mère des enfants perdus qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la ruse, celle qui t'enseigne la ruse. Viens te perdre dans mon chahut. E allora, sempre mentre siamo in attesa dell'altra corrispondenza prevista per quest'oggi, continuiamo con la lettura di alcune pillole che consideriamo particolarmente importanti. Una di queste è un appello che viene dal Museo Storico della Liberazione di Via Tasso e che per l'appunto, come dice il comunicato stesso, sta definitivamente chiudendo. Infatti andiamo a leggere, ieri 7 novembre 2010 è stato ufficializzato dal presidente del museo medesimo appunto questa chiusura alle porte. È un affronto alla città di Roma, ai suoi morti, a chi ha resistito, a tutti coloro che ancora soffrono dopo decenni per la barbarie subita dai familiari. Là sono scolpite con le unghie ed i manici di cucchiai nelle pareti le ultime grida strazianti di chi fu seviziato e torturato e poi ucciso. Là vi sono i documenti vivi, là è la nostra memoria. Per pochi miseri euro lo Stato e le amministrazioni locali non hanno voluto acquisire i locali di un museo che tutto il mondo conosce e visita. Un'altra vergogna italiana. Teniamolo aperto noi. Di seguito ci sono appunto le coordinate per le sottoscrizioni, appunto per cercare di tenere viva là un pezzo della memoria di questa città. Allora, le coordinate sono appunto il conto corrente postale 51 52 0005, intestato per l'appunto al Museo Storico della Liberazione, via Tasso 145 00 185, Roma, e specificando poi nella causale contributo di solidarietà, per insomma andare anche un po' a rivedere queste coordinate per tutto quanto. C'è il sito che è www.viatasso.eu e appunto era una cosa che ci sentivamo anche di segnalare per appunto l'importanza che ha quel posto nella memoria di questa città e probabilmente di questo paese. Lascia stare bandiere e l'agnese, il primo a trattarle male, lo scemo che se le scena. Una per voi, spacciatori e produttori del gnugno, militario, mercenari per le guerre della vergogna. Sirene porta rogna, poltrone magna magna con troppe persone sulla gogna, mentre il vostro padrone guadagna sangue che bagna sto stato d'assedio. Grazia bastarda più del scellerino allo stadio. Eroi per quale bandiera mi chiedo, non c'è, non c'era. La vostra si chiama banconota insanguinata in pura. Per uno di voi che muore c'è sta tutto tranne che il dolore. Le lacrime so per le persone più care, ste pupille so fare per voi. Dammo che imbatte sto cuore, faccia che non gradisco e preferisco non vedere. Non è solo pazzia la mia, è più di un'allergia. Chi morte porta a morte merita come sorte sua. Deve essere così e così sia, ma scusa, come ti comportavi te a Nassiria se era casa tua? Non c'ho lacrime per niente e per nessuno, nessuno che le asciuga. Io scavo la mia buca, preparo la fuga. Il mio paese prova a fottermi da anni, in gabbia quando mi ci mandi, vendo rabbia per pagarmi i danni. I veri grammi a prima battitura, prendo la misura per la sepoltura e pensi che non c'ho paura. Vivo veloce perché se domani muori implori anche solo un altro giorno di merda qui fuori. Le strade sotto i riflettori, le borgate, le puttane sotto i protettori, le merde degli informatori. La mia gente è qui fuori da sempre, sto suono si sente, è la prova vivente. Ce n'ho una per i magistrati, una per i cani ammaestrati, una per gli infami infiltrati, i miei neuroni logorati, il mio destino in mano al fato, emarginato perché odio lo Stato. Lascia stare bandiere e l'agnese, fa trattarle male, lo scemo che te le spinge. L'uomo campa perché finché compra conta, troppi ce n'avrebbe su più un perdito. Lascia stare bandiere e l'agnese, il primo a trattarle male, lo scemo che te le spinge. L'uomo campa perché finché compra conta. Sai che non ho lacrime ma ho pagine di insulti, per divise color sangue ed eroi presunti. Io ho gli appunti di una vita intera, piscio sopra la bandiera. E finalmente riusciamo a collegarci con la nostra consueta voce della Lazio, la voce della Nord di questa trasmissione. Buona settimana. Vabbè, ho capito. Beh, a parte gli scherzi. Che vi devo dire? Non lo so. Vogliamo parlare di questo, dei rigori, non lo so. Cioè, questa era... Dai, senti, a parte... Rosicone, senti, dicevamo, con te pensavamo di riprendere una questione tra l'altro già iniziata qualche settimana fa e quando si era affacciata sulla scena politica la scissione finiana del PDL. Ora, l'altro giorno è finalmente insomma uscita allo scoperto l'offensiva dall'interno che stanno muovendo queste, che sta muovendo Futuro e Libertà all'interno della maggioranza. Ora, ovviamente non è che ci interessa fare il, come sempre, il risico politico, ma intanto inquadrare quali sono adesso in maniera un po' forse più chiara e definita i principi su cui si muove la nuova destra finiana, i suoi, chi lo sostiene, dato che insomma mano a mano si è anche un pochino ricostituito, si è costituito un po' meglio l'arco delle adesioni. Quindi ti lascio la parola, anche perché appunto stiamo parlando di questioni assolutamente calde, che probabilmente chi le segue in maniera un po' più continuativa come te forse può dare un aiuto un po' a inquadrarle. Ma diciamo che il titolo di questa vicenda è sostanzialmente quello di mantenere in vita il berlusconismo per molti aspetti, superando la fine politica del suo fondatore, vale a dire di Silvio Berlusconi, nel senso che il vero sdoganamento di quello che fu il Movimento Sociale Italiano, della vicenda politica del neofascismo in Italia, è avvenuto a partire dalle elezioni amministrative di Roma del 93, all'insegna dell'emergere di una nuova politica, di una politica fatta anche di televisione, di una politica fatta di immaginario in qualche modo salvifico, di sogni, eccetera, eccetera. In questo pertugio aperto dal nuovo rappresentato da Berlusconi rispetto alla vicenda politica italiana, si sono consumate anche le sorti in positivo di quelli che erano stati per mezzo secolo nel ghetto della nostalgia. Allora, il primo elemento da dire è che quando si stacca la spina non tanto al berlusconismo ma a Berlusconi figura, pensando di mangiarselo, pensando cioè fini di diventare lui il futuro leader della destra, che cosa si fa? Si fa da un lato un'operazione che assomiglia molto alle kermesse berlusconiane dal punto di vista diciamo della simbologia evocata, eccetera, cioè fa riferimento ovviamente alla due giorni che c'è stata in Umbria nello scorso weekend, e dall'altra parte e l'evocazione del capo, della figura del leader forte, eccetera, e dall'altra parte si cerca di tornare un po' all'immaginario che caratterizzava più che l'MSI, l'alleanza nazionale iniziale, quella del dopo Fiuggi, cioè una capacità di sintesi tra la, diciamo, l'evocazione novecentesca della tradizione missina e una moderna impostazione conservatrice che nulla ha da invidiare alle peggiori, diciamo, tradizioni della destra occidentale, da Reagan a Margaret Thatcher. Queste sono alcune caratteristiche. Ovviamente poi questa vicenda è arricchita nello specifico della predicazione finiana di alcuni elementi caratteristici della vicenda invece italiana, che sono l'apertura della destra a temi non strettamente clericali, quindi diciamo l'uscita dal fatto di rappresentare esclusivamente il mondo cattolico, un ragionamento sulle seconde generazioni che è un investimento sulle seconde generazioni, pensando che in prospettiva la xenofobia potrà essere ancora evocata, ma solo per i cosiddetti clandestini, cioè per gli ultimi arrivati, chi è già qui, diciamo, in qualche modo voterà, si potrà pensare di includerlo, e questo è un investimento che ha fatto da tempo ad esempio Sarkozy, ma anche David Cameron, e poi un ragionamento complessivo su quello che sono i meccanismi di regolazione del conflitto all'interno della società, all'insegna della pace sociale, di alcune caratteristiche di diritti dal punto di vista del lavoro, ma anche di una ridefinizione ad esempio dello Stato sociale, quello lungamente evocato non solo da Alleanza Nazionale ma da altre componenti attualmente della maggioranza berlusconiana, il cosiddetto welfare delle opportunità e via dicendo. Quindi in realtà è la costruzione di una proposta politica che ha degli elementi che partono dal passato, anche da un passato piuttosto remoto, e che trovano cittadinanza in una ridefinizione di qualcosa che però non è inedito, insomma molti di questi elementi erano già molto presenti nella vicenda berlusconiana. La grande novità ovviamente è di fare questo con un'evocazione della moralità della politica, della giustizia e quant'altro, che fa, diciamo, per la prima volta emergere esplicitamente un anti-berlusconismo di destra, ammesso che poi quello di Di Pietro, ma questo è più complicato definirlo, fosse altro, dopo anni che appunto sappiamo il popolo viola e quant'altro, diciamo la critica a Berlusconi veniva genericamente definita come una critica di segno progressista, di segno di sinistra. Questa mi sembra la caratteristica. Credo che non sia interessante cercare in particolare nell'evocazione di fini rimandi al passato neofascista, la patria, l'ordine, nel senso che certo che ci sono, ma il vero problema è che Fini cerca di fare un'altra operazione più ampia, cioè quella di incassare il fatto che nessuno gli chiede più conto del passato neofascista e missino, inventare una destra che non c'è in Italia, nel senso che in Italia non c'è la destra conservatrice, per il semplice fatto che la destra conservatrice italiana, quella che si è definita dal 94 in poi, era in realtà una somma di neofascisti, di movimenti federalisti di impianto xenofobo etnico o paraetnico come la Lega, e il nuovo populismo incarnato da, dietro il quale si era costituito un partito metà pubblicitario e metà televisivo. Il mondo conservatore in Italia stava sostanzialmente la Democrazia Cristiana e quei pochi partitini laici satelliti dei governi democristiani, liberali, repubblicani e socialdemocratici. Non c'è una tradizione gollista, non c'è la tradizione Tory, non c'è una tradizione di democratici di cristiano socialista tedesca. Fini inventa, diciamo, con il batter d'ali una nuova tradizione politica che in realtà dovrebbe avere, diciamo, dei sedimenti che qui mancano totalmente. Quindi ancora una volta siamo di fronte a un'operazione tutta politica, politician si direbbe, cioè tutta interna al quadro politico, e non è forse un caso che quando Fini dal palco di Bassia Umbra abbia pensato di rispondere ad alcune sollecitazioni del dibattito pubblico abbia citato Pierluigi Battista del Corriere della Sera come fosse, diciamo, uno storico o un filosofo. Cioè il livello è sempre più o meno quello del dibattito pubblico svolto nei salotti televisivi, quello è, diciamo, il livello della riflessione, e quindi se quello è il livello della riflessione, come dire, possono passare anche questi messaggi molto molto molto semplici e semplicisti. Questo mi sembra, diciamo, sommariamente il quadro. Però scusa, rispetto anche a quanto stavi dicendo appunto su questa opzione conservatrice di cui si farebbe portavoce Fini, noi in qualche modo poi anche nelle passate puntate in cui avevamo anche parlato un po' di questo, ci sembrava anche che in qualche modo questa opzione fosse, non dico fuori tempo massimo, però in qualche modo in controtendenza rispetto a un'Europa, ma in realtà un mondo in cui quel tipo di conservatorismo in qualche modo va tramontando a favore di un ritorno invece delle destre più populiste in qualche modo. Secondo te questa cosa come si inquadra? Diciamo che siamo di fronte all'ennesima contraddizione, diciamo, della vicenda politica italiana. C'è un libro uscito un paio d'anni fa anche in Italia che si chiama Sarco-Berlusconismo, di uno storico francese sociologo che si chiama Pierre Mousseau, che indica già dal titolo che cosa sta avvenendo in Europa. Sta avvenendo che le vecchie destre conservatrici si nutrono sempre più spesso di quanto viene prodotto nei laboratori del populismo. E basterebbe guardare, diciamo, la politica anti-Rom di Sarkozy e la riflessione sull'identità nazionale che Sarkozy ha imposto ai suoi per più o meno cavalcare il voto lepenista, l'ultima deriva della Merkel, peraltro, diciamo, insospettabile conservatrice democristiana, che è di queste settimane di denuncia del multiculturalismo che sposa i timori soprattutto nei confronti del mondo islamico che serpeggiano tra i democristiani tedeschi, e ovviamente anche politica seguita da David Cameron, che sta imponendo su un altro terreno alla Gran Bretagna i più forti tagli sociali dai tempi della Thatcher, quindi alla faccia del, diciamo, conservatorismo che si interessa ai ceti più deboli. Il problema è che in realtà il mondo conservatore è imploso negli ultimi 20 anni in Europa, il Partito Popolare Europeo con l'entrata di Forza Italia prima e del Popolo della Libertà poi è diventato un partito in cui le nuove destre siedono accanto ai vecchi conservatori e democristiani. Quello che cerca di fare Fini è in realtà una sorta di operazione contro la storia e contro il tempo. Il problema è che da noi tutto questo non viene sottolineato, cioè si dice vuole diventare come Sarkozy scordandosi di che cosa si è parlato nel dibattito pubblico francese nell'ultimo anno, cioè di identità nazionale, di Rom, siamo nel quinto anniversario della rivolta delle banlie del 2005 e di uso, diciamo, indiscriminato della forza contro i giovani delle periferie. Cioè il problema è che poi quando ci si sposta nella vicenda italiana si dimentica tutto questo. Fini sta reinventando un mondo conservatore che non esiste e lo fa nel momento in cui il mondo conservatore va verso il populismo. Il problema è che tutto questo non assunto e non chiarito nella vicenda politica rischia di rimanere sul fondo. Fini diventerà il Sarkozy italiano, mentre Sarkozy assomiglia sempre più spesso a Berlusconi. Diciamo patologie della politica e anche incapacità di capire che, come dire, l'unica destra, tra virgolette, per bene che possa esistere è esattamente quella che si smarca dall'abbraccio col populismo. Il problema è che l'abbraccio del populismo di Future Libertà e di Fini stesso è storia ancora in corso, è la storia degli ultimi 15 anni ed è della vicenda politica che ha trasformato un cenacolo di neofascisti in forza di governo. Questo è il problema e quindi non si può dire in qualche modo. Ma guarda, abbiamo qualche minuto perché c'è qualche ritardo sul GR. Ne colgo l'occasione per chiederti una riflessione su quelli che sono i riferimenti culturali. Ascoltando il al di là dell'ecumenismo, che appunto poi c'è da capire quanto sia ecumenismo, quanto effettivamente ci sia una riflessione chiara intorno alla scelta dei riferimenti che sono tutti legati alla Prima Repubblica, da Berlinguer ad Almirante esplicitamente citati. Però forse con più metterei più un accento su Almirante, perché è come fare entrare dalla finestra un riferimento che in qualche maniera era da tempo stato anche accantonato, anche per il peso reale poi avuto sulle dinamiche della Prima Repubblica probabilmente. Mi pare, vedendo anche il discorso del manifesto di Futuro e Libertà, i riferimenti appunto al futurismo, comunque in qualche maniera c'è una radice che bene o male è quella comune della destra italiana in maniera trasversale, da Casa Pound appunto fino a quello che adesso è il nuovo soggetto di Fini. Hai avuto modo un po' di vedere quali possono essere, di delineare questo quadro di riferimento, o se è qualcosa di molto nebuloso ancora e forse vuole rimanere tale per raccogliere ancora intorno a sé uno schieramento il più ampio possibile all'interno del panorama della destra italiana? Guarda, due elementi telegrafici. Il primo è quello che con cui tu finivi il tuo discorso, cioè credo che siamo su un terreno molto fluo, volutamente molto, molto poco definito, perché appunto, per quanto si diceva prima, questa è una proposta politica tutta interna anche agli schieramenti dei partiti, a destra che già c'è, quindi meno si definisce e meglio è, perché ha un appeal più largo. L'altro elemento invece credo che sia interessante, nel senso che da un lato io credo che progressivamente questa esperienza di Futuro e Libertà, vedremo nel laboratorio romano con Alemanno e in company, avrà sicuramente una forza d'attrattiva soprattutto su quei settori della ex destra sociale che in qualche modo avevano inseguito l'idea del comunitarismo leghista nel meridione, ma che poi in realtà hanno visto tutto ciò tramutarsi soltanto nella bieca politica dell'occupazione dei posti, della spartizione, e quindi credo che avranno qualche problema di tenuta al rispetto, e quindi non mi stupirebbe se in prospettiva, malgrado i segnali che arrivino oggi da Casa Pound piuttosto che da altri, sono quelli di una distanza e una affini, una vicinanza invece col conducatore Berlusconi, probabilmente qualcosa muterà. L'aspetto veramente interessante, però forse l'unico, il più interessante della vicenda Futuro e Libertà fin qui, è di aver provato a fare un'operazione alta dal punto di vista della storia della destra, cioè il manifesto d'ottobre, l'idea di far scrivere a un gruppo di intellettuali una sorta di fotografia, far tracciare una sorta di fotografia della realtà italiana, da cui poi far derivare intervento politico, è un'operazione che rimanda a qualcosa che era rimasto sotto traccia nella storia della destra italiana dai tempi della nuova destra di Marco Tarchi alla fine degli anni 70, e che dice che però in qualche modo, se la traduzione politica è ancora un po' debole, questo progetto potrà scavare molto più di quanto oggi le questioni delle percentuali di possibili votanti ci dicono. Sta rimettendo in moto un mondo intellettuale, quello che era stato prima vicino al Movimento Sociale Italiano, poi a N e poi alla nebulosa, pensa alla rivista Ideazione del PDL, e sta in qualche modo proponendo una sfida che nel clima molto confuso della politica italiana di questa stagione finisce addirittura, ed è il dato più clamoroso, a in qualche modo sedurre anche intellettuali o figure del mondo della sinistra che hanno firmato il manifesto d'ottobre, che ritengono che si compia con questa operazione una sorta di superamento della dicotomia novecentesca destra-sinistra, che però non possiamo dimenticarlo, è stata una delle caratteristiche della cultura della nuova destra, che si proponeva per quella via di superare il tabù del neofascismo, no? Sappiamo che per quella via è passata la riabilitazione della rivoluzione conservatrice prenazista, di una serie di figure anche molto interessanti, pensiamo a Ernst Jünger, ma che cela in sé il problema di non affrontare più storicamente quella cultura e quell'eredità che ha una, diciamo, un rilievo molto forte su alcune delle tragedie del Novecento, sulla costruzione di un sistema totalitario. Per cui il problema è che appunto forse sul piano culturale i segni simbolici sono deboli, ma l'operazione complessiva potrebbe risultare interessante o importante o di rilievo. Va bene, guarda, noi probabilmente appunto per tutti questi motivi ne ritorneremo a parlare nelle prossime settimane, suppongo, quando ci sarà qualcosa su cui anche appunto da verificare che cosa andrà a fare questa nuova formazione. Io non so se tu hai qualcos'altro da aggiungere o se a questo punto alle 13.08 ci salutiamo e ci diamo appuntamento per la prossima settimana. Alla prossima settimana a voi e agli ascoltatori, direi. Insomma. Grazie, un abbraccio, ciao. Se mettre en belle parole dans le cul. Pour les gars sociaux, les rôles remplis. 13.08, così sulle note degli Sniper si va a chiudere l'odierna puntata di Maldestra. L'appuntamento, come sempre, è per le 12.15 di martedì prossimo, come ogni martedì, oppure con il blog maldestra.noblogs.org. Battre insécurité, son bon cas des patria, toujours en rajouter. Pour eux, on a tous les torts, donc je prends grand. Un abbraccio a tutti e a tutti. Benico, repasse une couche avec Sarkoko. Les boycos sont plus chauds que jamais. C'est miné, j'imagine que désormais ces petits devs vont nous mener la vie dure. Faut qu'on s'adapte. J'ai pas d'antidote avec eux, nos rapports s'adaptent. Pas d'hier époque de malade, on est cop d'une réputation minable. Et comment sauver les meubles? Comment fermer sa gueule? Comment ne pas péter un câble? Tu crois qu'à leurs yeux, c'est le mal qu'on incarne. Les pointeurs, c'est nous. Les voleurs, c'est nous. Les attentats, c'est nous. On a bien compris qu'on n'est pas chez nous. J'ai choisi mon camp, rien à foutre. Je suis pas des vôtres, c'est même une fierté. Je sais pas si tu comprends nos sales stories. Là où les règles sont pas les mêmes ici. Où les refrains vont au charbon et se démènent. Ceci n'est pas un film, non. Et ça se passe dans ta ville, de l'autre côté du périph'. Là où les schmitts en civil sont à l'affût et te surveillent. On se met en mode furtif, en mode veille. Les refs continuent à faire leur. Ouais c'est notre old story. Là où les règles ont changé ici. Où Castaldi passe le relais à Sarkozy. Ceci n'est plus un jeu. Et ça se passe dans ta zone. Les candidats sont des jeunes. Noir, blanc, jaune. Les caméras sont des commères. Les zooms sur les doigts et pieds pour plus de 3 mois. Où les perdants finissent en tôle. Sans les votes du public. Plutôt celui des schmitts. Et finissent à moins de 14 à rôle. Ça se passe comme d'hab. Ici où la vie est batte, les halls sont crasses. Comme un moulard dans une kebab. Traîne du jeune rap, arabe, renois et blanc. Et si t'en es pas content, garde en la première syllabe. Quand parfois j'y mange, d'autres viennent pointer. Est-ce le bruit qui vous dérange ou notre présence qui fait flipper? Toi tu mets des prospectus, d'autres croient vos bus. Les l'kbar, les l'zrar, simplement pour les hédifs de plus. Du shit pour les nerfs, apaiser la galère ou c'est la guerre. Une chatte pour 20 célibataires, frère sur le pavé. C'est pas ce que tu recherches bébé, l'homme idéal. Sort-il d'un conte de fées ou déjà fait? Nous le fruit des cités, vos reportages sécuritaires. C'est fou ce qu'on est populaire. Rien qu'on passe à la télé entre dealers et tournantes. Un plus pour les racistes, à pas confondre. C'est un hall, pas une école pour terroristes. Où on nous tape du style, rénove à la bonne heure. S'il répare les ascenseurs, c'est qu'un ministre débarque en ville. Que de belles phrases, le gros voleur, pas chez toi. Frangin, c'est à l'occasion, serre-lui la main, puis tourne tes doigts. France d'en haut et d'en bas, qui carotte le plus de bas. Est-ce le voleur en costa ou le voleur en costa, hein? T'aimes pas mes vers, ni mon vocabulaire. Tu me trouves vulgaire lorsque je communique ta mère. Y'a plus le droit de fumer un bête, plus le droit d'aller au but. Plus le droit de traîner avec tes potes, c'est que les bâtards strutent. Après les bleus de Santini, experts en football. V'là les bleus de Sarkozy, nouveaux experts au flashball. Et voici la Gaule, nous résistants de demain. Les rôles s'inversent, nous pour Astérix et eux pour les Romains. Faut insulter leur mère pour ouais. Ça y est, confiance en moi. Ouais c'est notre old story. Là où les règles ont changé ici. Où Castaldi passe le relais à Sarkozy. Ceci n'est plus un jeu. Et ça se passe dans ta zone. Les candidats sont des jeunes. Noir, blanc, jaune. Les caméras sont des commères. Les zooms sur les doigts et pieds pour plus de 3 mois. Où les perdants finissent en tôle. Sans les voix du public. Plutôt celui des schmitts.